Vacanza di lago. Capitolo secondo. Le ultime sere anche Suor Paolina le si avvicinava, indicandole con un dito quelle stanze poco lontane e le panchine ancora screziate di fogliame, quasi nascoste dalle siepi e dai getti pieni di quel giardino ancora scomposto, ma bellissimo, anche nel freddo, misterioso e mutevole, di luci pallide nelle giornate più corte e più avare. La notte Martin posava i suoi vestiti sulla sedia, preferendo al buio assoluto la stabilità di un lumino animato dell'infanzia, che le facesse sempre un po' di chiaro durante l'incedere delle tenebre nella sua camerata. L'odore forte dei primi mandarini, intrecciato nelle pareti e sulle lampadine fulminate, sui pomi della tessera grigia del suo letto speciale, diverso da tutti gli altri da quando era rimasta da sola. L'albero grande del giardino ne dispensava diversi e di tutte le grandezze. Martino ne portava sempre qualcuno a letto, preso di nascosto dal refettorio e consumandolo in fretta prima che dal corridoio spegnessero la luce. Poi pensava con gli occhi spalancati alle bocche smisurate delle case di fronte, quella dei Farden, con i denti affilati ad attendere all'ingresso insieme a quei due grossi cani. E allora sentiva un freddo acuto alle gambe che le saliva su fino a raggiungere il centro della gola e mozzarle il fiato come dopo una corsa. Forse Martin avrebbe potuto finalmente desiderare anche qualcosa di vero dopo tanto tempo. I fiocchi di neve azzurre e lettere d'amore sgrammaticate da consegnare a quella donna così bella. Forse ancora di più per quella sua stanchezza diffusa e soffusa di ansia con cui le si accostava quegli ultimi pomeriggi. Mentre pensava e si rigirava inquieta nel letto, l'alba ormai già soffiava piano sui vetri grigi e appannati, appena accennata nel freddo asciutto di novembre, a schiarirle la cenere incerta del cielo, il movimento dolce delle punte più alte dei faggi. L'odore delle colazioni la raggiungeva ancora, puntuale, come sempre, dalle cucine calde di primi vapori, lasciandola sospesa tra la voglia di alzarsi e quell'attesa pigra di un altro richiamo sollecito, forse uno degli ultimi, sul quale si sarebbe ancora adagiata, prima di doverlo perdere per sempre. Suor Paolina, con la sua voce chiara, riaprì le imposte, con la sua buona energia, riflettendole negli occhi una luce bianca e implosa delle poche nubi, i rumori di quelle mani svelte e rugose sulle cose piccole e inutili della camerata le recavano un particolare conforto. Cominciavano a mettere ordine, lasciandola ancora riposare con la mente appena più calma per l'impatto del primo freddo del giorno sul viso. La notte appena trascorsa aveva lasciato nell'aria del giardino le impronte fangose di orchi e locandiere gobbe e stregate. Erano immagini sfocate ma soffocanti, che facevano ancora male, ma che poi nel tempo andavano via, lasciandole la speranza di un mattino diverso negli occhi ancora socchiusi per la troppa luce. Durante gli ultimi tratti di quell'attesa, Martin a volte chiudeva gli occhi di proposito, provando ad immaginare di essere già lì, nelle stanze grandi e sconosciute di quella casa, e di sentirsi già addosso gli odori diversi e sofisticati di una famiglia vera e operosa, una di quelle importanti e indaffarate, che cucinava male e in ritardo sui tempi perfetti e monotoni del refettorio, con l'odore di fumo e di fiabe difficili del signor Farden intriso nelle pareti e il fruscio romantico della sua nuova madrina, immaginata adesso come una distesa morbida e infinita di sorrisi, dissolta nel corallo triste ed appannato di vestaglie interminabili, che avrebbe sfiorato con le dita aperte sulla carne nuda prima di addormentarsi. Eppure con Sophie più di una volta avevano parlato di scappare via insieme e continuare quel loro viaggio fantastico e disegnare sui paesaggi da finestrini tramonti liquidi di un mare invisibile, solo pensato, da penetrare in un tuffo doppio e con le facce stordite dalla luce, dove avrebbero contato le case e le finestre aperte, e gli sarebbero capitati a tiro, immaginandosi una vita ancora diversa e forse più fortunata per entrambe, entrando in ognuna di loro dai balconi più accesi, come falene scaltre e notturne. Ma le adozioni e gli affidi seguivano il corso disordinato e doloroso dei loro incontrollabili destini, segnando con il rigore del loro passo le loro nuove distanze e la certezza di non potersi mai più incontrare. Quel mattino Suor Matilde scese prima del previsto e la raggiunse quando Martina era ancora coricata e avvolta dalle coperte pesanti e scomposte per i suoi continui movimenti. La salutò con gli onori di una regnante di Sassonia e con uno sguardo profondamente più triste che sfocava dall'interno dei suoi grandi occhiali severi e appannati. Martina era già seduta in mezzo al letto ad ascoltarla, ancora sospesa tra la veglia ed il sonno. Matilde le tirò su i capelli con forza, come non aveva mai fatto, e gli strinse in un elastico verde, a dispetto di quelle recenti indicazioni sulla pettinatura suggerite da Suor Paolina, che venivano puntualmente trasgredite. Poi cominciò a parlarle di cose piccole, ma troppo difficili da capire, che Martina ascoltava con irregolarità e distrazione. Il suono del telefono, che squillò forte dal corridoio. Suor Matilde si guardò intorno, perplessa, poi ritornò con un sorriso a quel viso assonnato e insicuro che aveva ancora tra le mani. Ma cosa succede? Non c'è più nessuno qui stamattina. Gli squilli continuavano ancora e Matilde non sentiva altri passi che accorrevano per rispondere. Si alzò spazientita e la lasciò sola, sfiorandole il viso con un palmo aperto e richiuso in fretta sul lato di un labbro. Le ginocchia della donna scattarono come cuspidi e la portarono in breve tempo al telefono nero al muro, che era a pochi passi dalla camerata. Quella telefonata prese subito uno strano calore e poi cominciò a prolungarsi. Più durava, più la voce di Suor Matilde sembrava sfiorirle dentro di tante sonorità diverse, per diventare subito rarefatta, impercettibile, lontana. Martin raggiunse a piedi scalzi l'uscio della camerata con la dovuta prudenza, la punta del viso tesa sul corridoio e le mani aggrappate alla maniglia fredda. La vide parlare, accelerare e ritornare poi di spalle sui tempi più dilatati delle sue parole iniziali, adesso imprecise, poi roche e più barcollanti nei toni e nelle inflessioni, poco prima di posare, rimanendo per un attimo sospesa in un vuoto indefinibile, claustrofobico. Quando la cornetta ritornò sul telefono, Martin si ritrasse di scatto e ritornò di corsa a letto. Ma i passi della suora cambiarono direzione e si allontanarono dalla camerata, diventando all'improvviso così più lontani, poi inesistenti, ingoiati dalla chiusura fragorosa della porta a vetri. Martin rimase da sola, con la finestra aperta. Giunsero in tre a cercare di farle capire la natura di quell'imprevisto, che era sembrato una sorta di strano miracolo dispettoso, per quei tempi troppo fragili di quella sua grande ferita speranza. Suor Paolina guardava le altre due sorelle, facendo cenno con il capo di rimanere ancora un po' da sola con la piccola. Una volta sole, le si fece più vicina e cominciò a parlarle piano, sciogliendo i capelli e pettinandola nei sussurri. Le mani sulle punte delle piccole ginocchia, piegate sotto le coperte pesanti, come cime innevate di piccole colline. È successa una cosa bella, che dobbiamo definire così, anche se a noi ci cambierà un po' di programmi, lo capisci Martina, vero? Capire cosa? Che in fondo le cose che capitano nella nostra vita, insomma, belle o brutte che siano, alla fine non risultano mai sempre uguali per tutti. Dipende solo dal punto da cui li osservi. Tutto qui. Martin non capiva e continuava a giocare con la punta di un lenzuolo intrecciato tra le dita. Si lasciava pettinare e chiudeva gli occhi per qualche nodo dei capelli che si opponeva al percorso, adesso poco più regolare del pettine, quando accompagnava i tempi e le pause nervose delle parole di Paolina. La signora Fardelli, insomma, avrebbe scoperto di aspettare un bambino tutto suo, un bambino vero, capisci? Ormai è sicuro. Dicono che avrebbe letto le analisi, le avrebbe lette stamattina. Martina alzò gli occhi e li spostò piano verso uno squarcio visibile di giardino. Era tutto bianco a quell'ora, bianco e giallastro. per la cattiva luce di quell'ora. Al momento rimarrebbe tutto in sospeso. In fondo ci avrebbe chiesto solo di capirla e di scusarla anche un po' per la situazione così improvvisa, che è stata una sorpresa anche per loro. Adesso hanno solo bisogno di tempo. Possiamo mica condannarli per una cosa così bella, poi. Non possiamo condannare nessuno. Ma perché non mi dici niente, Martin? Adesso Martin era pettinata alla perfezione. L'inverno spianava di noci verdi e fioccate calme il selciato appena nascosto di nevischio, avvolgendo il giardino delle camelie nelle tenebre improvvise di quella distanza imposta, ormai inevitabile per volere di quella strana natura, intrecciata tra gli uomini e gli eventi. Le sue giornate ripresero la regolarità e la monotonia di quelle precedenti all'arrivo della signora Fardè. Il sabato, nell'ora della visita ormai interrotta, la bambina colorava le figure rimaste incomplete e riprendeva i conteggi dei tempi esatti della gravidanza, segnando i giorni sul bordo più basso del quaderno e stando attenta a non farsi mai scoprire da nessuno. I suoi conteggi scandivano i passaggi delle stagioni e, insieme alle prime fioriture, le sue violente allergie e le sue angosce più fitte, quando guardava piovere forte dai vetri chiusi, a luci tutte spente nella camerata, allo sfocare del giorno. Il piccolo Farden sarebbe nato intorno ai primi di luglio. In cucina ogni tanto trapelavano piccoli commenti. Il vento caldo sul calendario favoriva qualche accenno alla vita di quella famiglia ancora troppo enigmatica, che adesso le si allontanava vorticosamente, giorno dopo giorno, lasciandolo in balia di forze oscure e sconosciute, che la stordivano di piccole speranze e grandi delusioni, nel breve carcere dei loro sorrisi anziani. Quando il giorno era più chiaro, Martin misurava con gli occhi attenti lo spazio sul muro riservato al fiocco, calcolando il raggio dell'ombra per quell'inclinazione che il sole al mattino avrebbe intagliato sull'intonaco e pensando a quale colore avrebbe mai avuto e quali occhi gli sarebbero capitati, se quelli miopi e distratti del padre o quelli tragici e sconfinati della signora Fardin, che erano sempre aperti di quelle strane grandi malinconie. Intanto era da più di un mese che si affacciava all'istituto un simpatico signore francese, dai modi raffinati, gentili, di nome Victor Menier. Il signor Victor parlava a lungo con suor Paolina, guardando da lontano la piccola Martine quando cenava da sola, ma senza mai avvicinarsi più di tanto. Un pomeriggio la salutò con il cenno stanco di un guanto appena sfilato dalla mano sottile, accennandole l'inizio spaurito di un piccolo sorriso di accoglienza. Martino lo guardò appena, non riconoscendo alcuna espressione né calore in quel gesto formale, quasi ostentato. La bambina, infatti, non voleva cogliere elementi sostitutivi alle sue grandi emozioni appena trascorse, che ancora lontane continuavano a stringerla senza tregua nella remota possibilità di riviverle. Ormai Martino avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di alternativa a quel suo progetto di vita così ambito e sofferto, e forse proprio per questo ancora più bello e prezioso, perché ferito a sangue. Alla famiglia della signora Fardin, Martino non avrebbe sostituito nessun'altra casa, adesso neanche ad immaginarla. Ormai lo aveva solennemente giurato a se stessa. Mancava ormai poco a quella nascita e al tormento dolce di quella sua esclusione ancora legittima e dimenticata dal fermento collettivo di quell'imminenza. Quel giorno di luglio il giardino era incendiato di sole e ancora più bianco e pulito degli altri pomeriggi, per i fiori sugli alberi pulsanti di una vita diversa e le incursioni degli uccelli nestro, spericolati di azzurri tracciati in obliquo e sempre così improvvisi, nella giusta velocità delle ombre, disegnate e cancellate nello stesso soffio di lemiganti. I parenti dei Fardin erano già al balcone a fumare, qualcuno giù a passeggio, in attesa del loro arrivo dalla clinica. Il refettorio caldo e pieno della stessa grana di luce, riflessa al contrario. Martin vi rimase immobile, ma agitata, per buona parte del pomeriggio, in attesa di vederli arrivare dal varco aperto del cancello centrale. Ormai conosceva alla perfezione le dinamiche e i più piccoli spostamenti della famiglia, vivendosi quell'evento come una parte integrante di quello stesso nucleo. I coniugi Fardena arrivarono dalla clinica stremati, con una luce strana nei visi. La macchina parcheggiata in modo diverso dal solito. La signora, che era seduta sul davanti, scese con una lentezza inusuale, sofferente. Un parente più giovane, seduto dietro, si precipitò avanti per prelevarla, sorreggendola a braccio, il palmo affondato dentro un fianco. La donna si appoggiava e proseguiva a fatica, con il capo e la schiena incurvati. Il marito scese poco dopo. Aveva con sé le borse e una copertina arancione fatta a mano, che gli scivolava da un gomito a sfiorare quasi il selciato. L'uomo si accese un sigaro e rallentò, negli stessi tempi deboli della piccola fiamma di Cerino. Il loro bambino era sopravvissuto per pochi minuti. Si parlò di una rarissima malformazione cardiaca che lo aveva lasciato scurire come nell'anello cupo di un'eclissi e soffocandolo sotto gli occhi impotenti dei medici e dell'infermiera. Martin raggiunse il confine tra il giardino e il terreno incolto dell'istituto con la sua bicicletta, lungo il pomario lucido e bagnato dall'ultimo piovasco del pomeriggio. Adesso avvertiva nel piccolo petto ansimante per la corsa quell'odore acre di morte che rimaneva rappreso nell'aria, nelle piante più alte, nel gonfiore della terra calda. L'annuncio le fu filtrato da una serie di piccole informazioni imprecise, ma le stesse immagini che riusciva a ricomporre in quel suo continuo scrutare, giorno dopo giorno, diventavano una conferma ancora più netta dei suoi dubbi. Al muro non c'era ancora lo sbuffo del fiocco tanto atteso. La signora Fardin ormai non si vedeva quasi più e le sue finestre erano sempre chiuse, anche durante le giornate più radiose. Non si sentivano voci né pianti, solo i soliti uccelli del giardino, che solcavano di ansie rapide le pareti rugose di quella casa dimenticata, virando di squarci accelerati prima che il cielo si oscurasse e che si accendessero lentamente le file regolari dei vecchi lampioni, portieri notturni in uniforme, impettiti sulla calma romantica e decadente dei viali disabitati della sera. L'annuncio di quella morte la tenne ferma in un gioco sapiente mirato di incastri e di paralisi, tra i tormenti profondi di quel vuoto e la dolcezza impura e colpevole di una grande speranza, che l'avrebbe accompagnata per il resto dei suoi giorni in istituto, bisbigliata da sguardi sfocati o segnali preziosi sui visi delle suorine più anziane, foriere di piccoli segreti e grandissime ritrosie. Ogni pomeriggio Martin aspettava che qualcuno dei coniugi si affacciasse ad uno dei balconi o scendesse diretto verso il cancello, per farsi poi subito scorgere per tempo, correndo all'impazzata vicino allo steccato di confine, fingendo di essersi fatta male, piegata all'improvviso e guardandosi un ginocchio perfettamente intatto, quando lo sguardo aveva planato furtivo verso i loro impercettibili e minimi spostamenti, misurati dalla fretta delle scarpe, che adesso sognava orientate nella sua piccola direzione sfocata, nella stessa rotta immaginaria dei loro sguardi distratti. Martin sapeva che prima o poi sarebbe giunto il giorno della sua grande consolazione. Lo sentiva. Dalla cucina origliava, sera dopo sera, la possibilità remota di un qualche incontro sporadico con la donna. Forse una visita discreta di condoglianze, con il vestito più anonimo e appassito, che l'avrebbe ricondotta con violenza nell'interno caldo di quelle pareti ancora nebbiose, dove imparare di nuovo a perdersi. Sarebbe giunto in un completo leggero, con le borse già pronte dalla sera precedente, ed una piccola lettera di ringraziamenti e di condoglianze, scritta di proprio pugno, dopo innumerevoli tentativi mancati. Ma alla fine di luglio la signora Fardin scompariva misteriosamente, non dandole più il tempo, oltre quei viali silenziosi e rosati, delle ultime serate estive, senza lasciare più tracce.